1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, forza, forza! Allora, oggi parleremo di questo Senato che cambia, almeno nelle ipotesi del Premier Matteo Renzi, in questo disegno di legge costituzionale. Come avete sentito, Renzi dice: noi vogliamo cambiare, chi non vuole è il conservatore, poi non ha usato questi termini, ma circolano parrucconi, conservatori. Insomma, secondo voi, anche secondo voi, l'Italia si divide così: chi vuole cambiare e chi vuole conservare? Ne parleremo con la vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta alle 8:15. Starà con noi anche Nicola Morra, sempre al Senato del Movimento 5 Stelle, e il professor Ceccanti, costituzionalista. Vedremo di capire se davvero questa è la sfida sulla quale Renzi si gioca tutto o gran parte della sua credibilità politica. Questa alle 8:15, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo martedì 1° aprile, tra l'altro Aurora Lussana, direttrice della Padania, poco fa mi ha scritto: guarda che il couscous che cucinavo oggi è il classico pescione d'aprile, e noi ci siamo cascati tutti. Ve la vedete Aurora Lussana, direttore della Padania, a cucinare il couscous in salsa orobica con un po' di cotechino. Va bene, allora viva il pesce d'aprile che ci siamo beccati. Allora, i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre così: piazza affari al top in Europa, inflazione ai minimi dal 2009, mentre tutti gli altri quotidiani dedicano l'apertura proprio al Senato. Così può cambiare il Senato, così apre il Corriere della Sera, mentre per Repubblica: Senato riforma al via, ma la sfida di Renzi è appesa a 40 voti. La Stampa: Senato Renzi si gioca tutto. Per il Messaggero: Renzi taglia al Senato, sì del Colle. Libero: rischia tutto, e c'è la foto di Renzi, o meglio un disegno di Matteo Renzi. Per il Fatto Quotidiano: Renzi fa ciò che vuole e il Colle benedice. Il Giornale: al via la riforma, fuori i tromboni. Mentre il Manifesto: il vitello grasso se la prende sulla riforma del Senato, anche con la questione, insomma, citando il presidente del Senato stesso, Grasso. C'era una volta il Senato, invece così apre l'Unità, mentre Avvenire: serio passo avanti verso il nuovo Senato. Come vedete, c'è poca fantasia oggi nei titoli di apertura dei quotidiani. Ovviamente ci sono anche altre notizie. Per esempio, voglio partire da qui, sui soldi ai partiti. Repubblica oggi dedica una pagina interessante, a pagina 9, con Michela Scacchioli, racconta attraverso una ricerca di Open Polis quanti sono i soldi che i partiti si sono presi da aziende e da privati, i finanziatori privati dei partiti, non quindi il finanziamento pubblico, ma i finanziatori privati. Ebbene, dal 92 a oggi dai privati sono arrivati 1,5 miliardi di euro ai partiti. Il partito che ha ricevuto di più è Forza Italia, da Publitalia 80 SPA, 43 milioni e 7 insomma, di euro, divisi negli anni tra PSI, DC, PLI, PRI, MSI, Lega Nord, Forza Italia. Poi a ruota figurano Gianmarco Moratti, che ha dato 12,3 milioni di euro a Letizia Moratti. La Beta Immobiliare SRL 11,5 milioni al PDS, seguiti dalla MEC SPA di Torino, holding legata alla famiglia Bonsignore, che ha dato 4,8 milioni allo stesso Vito Bonsignore, europarlamentare. E poi Banca Intesa, finanziato per 3,1 milioni di euro IDS, Fininvest 3 milioni a Forza Italia, il conte Giannino Marzotto 2 milioni di euro tra Forza Italia e Lega Nord, la famiglia Caltagirone 1,5 milioni di euro in buona parte all'UDC, Autostrade SPA, che ha dato 1,1 milioni euro ad AN, Forza Italia, Lega, UDC, Udeur, Prodi e Margherita, insomma un po' divisi, Mondadori 485.000 euro a Forza Italia, e così via. Insomma, comunque tutta la classifica di quelle che sono i finanziamenti privati, di chi ha finanziato chi, Li trovate su Repubblica. 1,5 miliardi ai partiti dal 92 a oggi, Forza Italia e la Moratti in testa. Forza Italia e Letizia Moratti sono quelli che più hanno beneficiato di soldi ai partiti. Interessante questa classifica. Poi devo dire, devo aprire una pagina dedicata alle svariate svariate forme al sesso, perché questo è il tema che oggi sui giornali c'è un po' sparpagliato qua e là. Intanto fa notizia Antonio Razzi fa notizia per qualsiasi cosa, no? Ha depositato una proposta di legge anche lui, ultimo tra molti, per riaprire le case chiuse, per legalizzare la prostituzione. Marco Bresolin sulla Stampa: Razzi inventa gli operatori di assistenza sessuale, così chiama lui quelle che dovrebbero essere partite IVA per gli operatori di assistenza sessuale, cioè prostitute, prostituti, insomma coloro che vendono il proprio corpo. Una proposta di legge nella quale la Stampa racconta, vabbè, c'è anche l'obbligatorietà nell'esercizio degli assistenti, degli operatori di assistenza sessuale, dell'uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. Anzi, se si rompe, l'eventuale danneggiamento deve essere denunciato alle autorità competenti. Questo addirittura nella proposta di legge di Razzi, che infatti fa un'intervista al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, con Tommaso Rodano, va a sfruculiarlo. Onorevole Razzi, sa, tornato dalla Svizzera sulla via Salaria a Roma, ho dovuto chiudere gli occhi di mia moglie, stavano tutte in costume ma senza il mare vicino. La legge allora l'ho scritta durante la 15ª legislatura. Che se il Fatto fa notare che l'attuale è la 17ª, però insomma lui non c'era nella 15ª, ma comunque così dice testuale. Ora vedo che alcuni colleghi sono d'accordo. Senta, ma la sua legge disciplina i casi di rottura del preservativo? Certo, se si rompe il preservativo ci vuole un controllo immediato entro il primo giorno feriale. Bah, su di lui e su di lei. E come funzionerebbero queste case chiuse? Guardi, io preferisco chiamarle oasi di pace, oppure oasi di relax. E poi il senatore Razzi conclude: comunque non mi fraintenda, io sono all'antica, non sono mai entrato da 40 anni sempre con la stessa donna. Ah, il senatore Razzi sta al Senato, per l'appunto, al Senato, il Senato. Poi ne parleremo alle 8:15. Sempre in tema sesso, ma cambiando assolutamente argomento, torniamo sulla vicenda delle baby prostitute ai Parioli, perché oggi sui vari giornali il Corriere mette la notizia in prima pagina con Fiorenza Sarzanini. C'è una notizia non indifferente, e cioè questa: molti dei clienti delle studentesse dei Parioli hanno deciso di chiedere il patteggiamento per avere pochissima pubblicità, anzi per evitare la pubblicità del processo, ottenere uno sconto, e il giudice ha stabilito che con una 40.000 euro di pena pecuniaria si può in alcuni casi appunto ottenere il patteggiamento. Tanto che in prima pagina del Corriere il titolo è questo: clienti dei Parioli salvi con 40.000 euro, la richiesta di patteggiamento per uscire dall'inchiesta prima possibile. Alcuni clienti delle due studentesse prostitute dei Parioli hanno trovato l'accordo per uscire dall'inchiesta, saranno liberi versando questa pena pecuniaria di 40.000 euro. In alternativa dovranno fare 5 mesi e 10 giorni o movimenti controllati senza passaporto. Il titolo del Corriere è anche volutamente un po' polemico: clienti dei Parioli salvi con 40.000 euro. Segno che si compra davvero proprio tutto fino alla fine. A proposito, per chiudere questo inizio insomma dedicato al sesso, oggi c'è un articolo tra lo spassoso e il serioso, e anzi il serio suona come un appello, dello scrittore Guido Ceronetti, oggi in prima pagina di Repubblica, che parla di sesso e terza età. Mettiamo fine alla barbarie della vecchiaia senza sesso. Guido Ceronetti in prima pagina di Repubblica va messo in luce questo stupefacente esempio di barbarie medica, politica e sociale, la fabbrica dei giubilati, degli esclusi, dei frustrati del sesso, dell'amore a sfondo sessuale a partire da un'età prossima alla settantina o ancor prima, fino alla spossatezza e alle disperazioni di quelli che la geriatria contemporanea non abbandona neppure al di là dei 100. Insomma, scrive Ceronetti, la rinuncia forzata al sesso è approssimativamente di una trentina d'anni la durata media del tempo giovenile. Per disabili, carcerati, in paesi civili qualcosa si è mosso e si sta muovendo, ma per i vecchi maschi eterosessuali, coniugati o soli, si muoverà mai qualcuno? Ma io lo leggevo e dicevo, ero stupito, ma invece la proposta è serissima. Ancora Guido Ceronetti, il ricorso alle prostitute non è certo un rimedio, la prostituzione degrada l'uomo molto più della donna. Ma come? Del resto le battone sono una specie in estinzione, ma dal momento che già esiste nell'Europa non cattolica il servizio erotico volontario per i disabili, non dovrebbe essere fatto un passo successivo estendendolo a tutti i vecchi di immaginazione vivace e di speranza morta? Questo è l'appello di Guido Ceronetti, intellettuale e scrittore in prima pagina di Repubblica. Avete sentito? La prostituzione degrada l'uomo molto più della donna. E poi, insomma, chiede come per disabili o carcerati nei paesi civili qualcosa che si faccia per i vecchi maschi eterosessuali che, insomma, sono ancora, come le definisce, vivaci di immaginazione. Guido Ceronetti, prima pagina di Repubblica, una proposta per diminuire l'aggressiva veemenza delle infelicità esistenziali. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dal Senato, eh? Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Vabbè, era abbastanza conseguenziale rispetto ai temi che abbiamo affrontato all'inizio della rassegna stampa. Ovviamente la notizia con cui aprono molti giornali è il Senato, il nuovo Senato che arriva. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale che riforma Senato, titolo quinto della Costituzione, abolisce il CNEL, abolisce anche di fatto le province. Vedremo sul Sole 24 Ore, tra l'altro, che non è proprio così, non si riesce mai, non è mai proprio così come le frasi che vengono dette, abolire le province, non è mai proprio così. In Italia c'è sempre qualcosa, qualche inghippo dietro. Comunque, questa è la sfida lanciata da Renzi dopo la disfida verbale con il presidente del Senato Grasso. Renzi ieri ha ribadito: la mia voglia di correre non è un tratto somatico e caratteriale di una persona disturbata, ma un'esigenza dei cittadini, ha detto, come racconta Alessandro Trocino a pagina 2 del Corriere. Ha fatto questa conferenza stampa, poche slide, questa volta dice le slide le affido alla secchiona ministro Boschi, visto che io ho fatto una televendita. E comunque sostanzialmente Renzi ha detto: chi vuole questo cambiamento è per l'innovazione, chi non lo vuole diremo nomi e cognomi, ma credo non saranno tanti da fermare questa riforma, sono invece coloro che vogliono rimanere nella conservazione. E come sarà il nuovo Senato? Tutti i giornali lo raccontano. 148 saranno i componenti, non eletti a suffragio universale, non retribuiti perché sono già pagati a livello locale, sono sindaci, rappresentanti delle regioni, eccetera, spogliati delle immunità, ingaggiati sostanzialmente part-time. Ci saranno anche gli attuali 5 senatori a vita. Ci saranno appunto consiglieri regionali, governatori, presidenti di province, ci saranno anche 21 senatori speciali comunque senza stipendio, nominati dal capo dello Stato per altissimi meriti in campo sociale, artistico, letterario e scientifico, un po' come i senatori a vita attuali. Restano gli attuali senatori a vita, ma anche loro senza indennità. Il Senato non è più il contraltare della Camera, in futuro cioè la Camera Alta non potrà esercitarsi nello sport del ping pong, sapete, no? Di queste leggi che vengono modificate e tornano per una seconda lettura. Insomma, il Senato delle Autonomie, così si chiamerà, Senato delle Autonomie, rappresenterà i territori e non la nazione, ma potrà occuparsi ugualmente delle leggi di revisione costituzionale. Ecco, questi a grandi tratti quelli che saranno le caratteristiche del Senato. Ci sono tante analisi oltre alle dichiarazioni. Francesco Verderami, in prima pagina del Corriere della Sera, fa questo commento dal titolo: Berlusconi prigioniero nella ragnatela del Premier. Perché, scrive Verderami, Renzi cambia verso la legislatura. Da ieri l'incognita del voto anticipato a medio termine viene di fatto cassata dalle variabili dello scenario politico, perché presentando riforma del Senato e anteponendola al varo dell'Italicum, cioè della legge elettorale, il Premier allontana le urne proiettandosi almeno fino al 2016. E scrive il Corriere con Verderami: ha ragione i capigruppo azzurri Brunetta e Romani a denunciare che il patto del Nazareno, cioè il patto tra Berlusconi e Renzi, sia stato violato. Ma in questo momento Berlusconi non ha la forza per opporsi al leader democratico. Il patto è stato violato perché? Perché viene appunto anteposta questa riforma del Senato alla riforma della legge elettorale, che inizialmente, parola di Renzi, doveva essere approvata entro il 25 maggio, mentre ormai tutti fanno capire che entro quella data, ma forse neanche entro luglio, entro l'estate, la riforma elettorale non si farà. L'Unità racconta i malumori all'interno del Consiglio dei Ministri, col ministro all'istruzione Stefania Giannini, che è andata a Radio Città Futura a dichiarare: un po' inconsueto che sia il governo a presentare una proposta di legge su questo tema, serve che il Parlamento ne discuta per ritoccare e migliorare alcuni aspetti. Il Consiglio dei Ministri è iniziato un po' più tardi, si sono appianate le divergenze, e anche Stefania Giannini ha approvato e poi era in conferenza stampa, nonostante per esempio Mario Mauro, che fa parte di Popolari per l'Italia, dica su Repubblica in un'intervista: Grasso ha ragione, servono gli eletti, ecco, è lui che sostiene Grasso, è solo il fronte di diversi senatori, secondo Libero sono i senatori per esempio del PD vicini a Letta, la vendetta di Letta, 25 senatori tramano contro la riforma. E scrive quindi Libero, ma insomma è chiaro che secondo il Repubblica i voti invece sono quelli che mancano a Renzi, ne mancano e ce ne servono 40 per essere sicuro di avere i voti per approvare questa riforma del Senato. Insomma, ci saranno questi voti. Per esempio, il senatore Esposito del PD viene intervistato da Francesca Schianchi sulla Stampa, pagina 3, dice: insomma, Matteo Renzi non può dire o è così o me ne vado. È quando, come quando all'oratorio c'era il ragazzino che diceva: o si fa così o porto via il pallone. E quindi noi siamo sostanzialmente d'accordo, ma vogliamo discutere di alcuni punti. Ecco, è quello che Renzi definisce, insomma, basta il benaltrismo, si può discutere, ma bisogna fare. Tra l'altro oggi sul Foglio c'è un'interessante analisi in prima pagina dal titolo: quella naturale alleanza tra Renzi e il Cavaliere contro gli ayatollah della carta. E Claudio Cerasa che ne scrive sulla riforma del Senato: gli appelli contro il tiranno, le firme degli intellettuali, il broncio dei costituzionalisti, le minacce degli ex magistrati e quella battaglia che accomuna i percorsi di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Renzi ha assicurato che il disegno di legge costituzionale verrà approvato in prima lettura entro il 25 maggio, cioè entro le europee. E Francesco Clementi, che viene sentito dal Foglio, docente di diritto pubblico comparato a Perugia, colui che è stato tra gli altri membro del comitato dei 35 saggi voluto dal Presidente della Repubblica nel 2013, dice: ci sono gli ayatollah della carta. In Italia è un fronte robusto composto da corporazioni varie che osserva la Costituzione come se fosse un testo sacro, inviolabile, intoccabile, dunque irriformabile. Gli azionisti di questo partito vedono nella difesa della carta l'unico argine in grado di scongiurare la fine della concezione della Costituzione come prodotto dell'antifascismo. Insomma, ce la farà contro quelli che vengono definiti gli ayatollah della carta, Matteo Renzi? Staremo a vedere. Intanto Proprio sul Sole c'è questa novità. Ieri il disegno di legge costituzionale dice scompaiono totalmente le province. Scompaiono totalmente le province, ma scompaiono davvero le province oppure no? Eugenio Bruno a pagina 4 dice: beh, abolizione a metà. Ma come abolizione a metà? Eh sì, via il nome dalla Costituzione, ma restano gli enti di area vasta. Bah. Insomma, messa così sembra un po' una supercazzola. A proposito di supercazzole, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. È come se fossi Antani, mi viene certo. da rispondere. Certo, a questo punto. Certo. Ma sì, effettivamente c'è questo dubbio, per dir così, che pone Eugenio Bruno oggi su Sole 24 Ore. Ma gli enti di area vasta sono. Non è che poi sono le nuove province, un po' come la TASI e l'IMU, per capirci. Sì, basta chiamarle in modo diverso, questo è. Cioè, la l'IMU prima casa non c'è più, però siccome adesso arriva la TASI, allora poi uno ha il sospetto che sia quella di prima che però si è un pochino mutata. No, tra l'altro sta ancora cambiando la TASI. Nelle pagine di norme e tributi spieghiamo come si stia cercando di scongiurare questo rischio di aumenti rispetto alla vecchia IMU, che segnalavamo anche ieri su Sole 24 Ore, e quindi insomma ci sia un lavorio parlamentare per cercare di limare queste cose che non funzionano. Oh, mi raccomando, leggi il dizionario oggi, che ti assolutamente diamo il dizionario, le tue tasse, tu le paghi le tasse? Sì, ho esitato un attimo. Sicuri, non è che ti sei scordato cose, no? Ho esitato un attimo, ma ho detto poi sì. Perché sai, può capitare che ci siano persone che si dimenticano magari dell'imponibile, eccetera. Ecco, no, allora c'è un dizionario con il Sole 24 Ore, più che altro per capire termini che magari non sono così di facile accessibilità, come ad esempio RW, che tu sicuramente non sai cosa significa, vero Alessandro? No, non so cosa significa, no, so che è però quel riquadro, vabbè. Che vuol dire? Rewind? Rewind, cioè devi ripagare. È un prospetto, però siccome si avvicina la stagione delle dichiarazioni è importante essere preparati anche su RW, specialmente se ci sono posizioni all'estero, sono cambiate delle regole e allora le spieghiamo, le rispieghiamo in dettaglio sulla prima pagina di norme e tributi. E poi naturalmente la pagina del condominio, come ogni martedì, viene da dire. Hai sempre lì 2 euro? Sì, sempre qua. Allora, pagina 2, Vitolops, come orientarsi nel grande rally di borsa, hai visto che la borsa, lo diciamo sottovoce anche facendo tutti gli scongiuri, invitiamo gli ascoltatori a fare lo stesso. La borsa italiana sta andando bene e quindi è andata bene. Se vuoi mettere da qualche parte i 2 euro, leggi la pagina 2 di oggi, c'è un'analisi per settori, un'analisi sulle dinamiche, insomma puoi trovare più di un consiglio per investire questi 2 eurini che altrimenti veramente restano lì. Sì, stanno facendo un po' la muffa effettivamente. Ecco, in periodo sai di prezzi calanti, capisco che tu aspetti che riprendano chissà che valore, ma guarda che non è una strategia tanto di così tanto lungimirante. Mi permetto di dire. Va bene, è ripartito il campionato. Grande, no, grande. Insomma, grandi partite, gol, raffica. Bene, no, caro. Non ne ho saputo nulla perché stavo appunto preparando questo dizionario sulle tue tasse. Che comunque potrebbero anche rincarare a questo punto. Va bene, è ripartito il campionato, dai, tutti non mi risulta, ma mi informerò. Adesso guarda, stanno passando sulla 7 dei gol di ieri. Vabbè, no, comunque dal di lunedì mi sembra veramente sconcertante. Ma insomma, vabbè, succede. Grazie Mauro, grazie a domani. E tanto traffico. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. E allora, sono qua, caro ascoltatore, un grande abbraccio ovviamente. E tra le varie riforme c'è anche quella dell'abolizione del CNEL, è un po' un tormentone, anche questo è un pallino fisso di Matteo Renzi, ne parla spesso, anzi dice che il Senato non diventi un CNEL 2. Oggi il Messaggero in prima pagina con Mario Aiello fa l'ultimo giorno a Villa Lubin, cioè la sede del CNEL, viaggio nel paradiso perduto. Quando Renzi pensa alla palude, pensa al CNEL, nonostante il più superfluo degli organi costituzionali abiti nell'angolo meno paludoso di Roma. Si trova infatti a Villa Borghese, degno di simboleggiare la grande bellezza. Quando al CNEL pensano a Renzi, che ieri ha varato l'abolizione del Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, lo pensano così: qui Renzi è una parola impronunciabile, confida un addetto alle pulizie. In questo paradiso agli sgoccioli nel suo ultimo giorno di esistenza, Matteo è l'impronunciabile, un succo di negatività quasi quanto i giornalisti. È giornalista lei? Boh, vada via, qui si entra solo se c'è un convegno. E ce ne sono tanti, racconta Aiello al CNEL, che è un convegnificio di quelli che hanno ispirato ad Alberto Arbasino una delle sue migliori piccole rime: parlare, discutere, confrontarsi per risultati così scarsi. Vabbè, insomma, inizia così questo viaggio nel CNEL da parte del Messaggero, in prima pagina, e poi a pagina 4 racconta Maria Aiello, tra le varie stranezze del CNEL, nel ristorante interno si mangia ancora con 8 euro e c'è chi dice inutile come i calzini con le infradito. Questo riferito al CNEL. Vabbè, vedremo se questa sarà una delle battaglie vinte anche dal governo, l'abolizione del CNEL. Una delle battaglie non vinte invece è quella, e il Corriere della Sera dedica una pagina in maniera meritoria, secondo me, a questo, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ecco, si chiude forse il Senato, mentre non si chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari. Il rinvio al 2015, come racconta Margherita De Bacchi in questa pagina, pagina 21, il rischio era che la chiusura sarebbe stata posticipata di 3 anni al 2017, era l'auspicio delle regioni, sarebbe stato un vero scandalo dopo il primo rinvio del 2013, mentre la fine dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari italiani doveva avvenire oggi, 12 mesi più tardi, ma un decreto del Consiglio dei Ministri ha rimandato lo stop definitivo, lo slittamento è stato almeno limitato. Quello dei manicomi giudiziari è un viaggio, per esempio, a Barcellona Pozzo di Gotto, che fa il Corriere con Paolo Foschini, dove ci sono reclusi per piccoli furti diventati pericolosi criminali, malati di mente, come la storia per esempio di questo signore Salvatore, rinchiuso da 22 anni per una rapina da 6.000 lire all'epoca. Non avevo neanche la pistola, fingevo con la mano nella tasca, ma poi che succede nei percorsi anche mentali di queste persone? Sono diventati malati psichici e quindi oltre che scontare la pena sono rinchiusi in alcuni casi, come questa storia, da 22 anni in queste strutture. Che è successo invece a Laura Boldrini, presidente della Camera, che è finita nell'occhio del ciclone, nelle polemiche, per una frase un po' criptica, per la verità, detta in un convegno. La frase ispira anche il Buongiorno di Massimo Gramellini, oltre che articoli un po' sdegnati su Libero, sul Giornale, che però prendono sempre di mira la Presidente della Camera, sulla guerra al lusso. Allora la frase è questa: non possiamo, senza un'insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti affluenti e poi trattare in modo a volte inaccettabile i migranti. Ecco, questo paragone, che forse articolato, poi spiegato, che ha messo un po' nel dubbio, cioè, nel senso, ma che voleva dire con questo paragone tra i servizi di lusso per i turisti con il modo inaccettabile in cui trattiamo i migranti? Ecco, Massimo Gramellini dedica proprio il Buongiorno a questo in prima pagina della Stampa: alberghi a 0 stelle e illustri boldrinologi sono al lavoro, scrive Gramellini, per cogliere il senso profondo delle parole pronunciate ieri dalla Presidente della Camera. Ripeto, queste: non possiamo, senza un'insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti affluenti e poi trattare in modo a volte inaccettabile i migranti. Secondo una corrente di pensiero, scrive Gramellini, Boldrini ha inteso dire che i miliardari russi e le vecchie zie inglesi andranno smistati in appositi campi di rieducazione, mentre i nullatenenti in fuga dall'Africa verranno sistemati in Costa Smeralda su una flotta di yacht requisiti per la bisogna. Una decisione che peggiorerebbe in maniera drammatica la nostra bilancia dei pagamenti, ma farebbe sensibilmente lievitare il conto in banca presso il paradiso. Altri decrittatori del sacro verbo pauperista si spingono a sostenere che Boldrini auspicherebbe la nascita di villaggi turistici misti, dove la vecchia zia inglese fraternizza col nullatenente subsahariano pagandogli vitto e alloggio. Una scelta in grado di sanare la insopportabile contraddizione, ma anche di provocare in pochi anni l'estinzione delle vecchie zie inglesi a causa degli infarti al momento del conto. Infine, una sperduta categoria di studiosi del boldrinismo, a cui mi onoro di appartenere, ritiene che la contraddizione tra il lusso e la miseria non si sana distruggendo il billionaire, ma mettendo i disperati in luoghi un po' più umani delle attuali gabbie e magari cominciando a trattare in modo meno inaccettabile i troppi turisti che scappano dall'Italia per la carenza di servizi, affinché coi loro soldi si possano poi accogliere meglio anche i migranti. Vabbè, l'arzigogolo continua. Questo era Massimo Gramellini in prima della stampa. Che dire, siamo al momento conclusivo? Siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, ovvero la carta costa. Ricordatelo, articolo scelto come sempre a mio insindacabile giudizio. Oggi vince il Corriere della Sera con una pagina di Paolo Di Stefano dedicata a che cosa? A Beethoven, a Mozart, a Freud, a Dickens, a Darwin, a Victor Hugo, a Gustave Flaubert, a Le Corbusier, a Immanuel Kant. Dite, ma che c'entrano questi? Ma non, già questo infatti non lo so, ma comunque le giornate di genio e regolatezza che hanno reso grandi artisti e pensatori. Cioè, voi pensate che questi che ho citato, grandi scrittori, pensatori, filosofi, avessero una vita di sregolatezza? Invece il Corriere dice no, erano tutti genio e regole. Ah, lavoravano molto. Ah, erano metodici, soprattutto facevano delle grandi dormite. Ecco, io quando leggo che facevano delle grandi dormite volevo stracciare il giornale. Io non diventerò mai Immanuel Kant. Io non diventerò mai Victor Hugo. Io non diventerò mai Charles Darwin. Ecco perché. Perché non dormo abbastanza. Ecco il motivo. Mannaggia ragazzi, la carta costa, ma non lo capiscono, non lo capiscono, non lo capiscono.